Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci vuole un cambio di passo in fase 2. Il Veneto ha fatto molto bene anche in fase 1, continua a farlo, molti tamponi, una strategia aggressiva sul territorio, l'ha fatto così tutte le regioni italiane. Io penso che i tamponi vadano fatti sia sintomatici che i contatti dei casi, anche se asintomatici, quindi in fase 2 io credo che debba cambiare strategia, anche la Lombardia credo si debba adeguare guardando a quello che è riuscito a fare il Veneto, il controllo del territorio è molto molto importante. Fare i test, fare i tamponi, tracciare i contagi, oggi lo ha ribadito il direttore dell'infettivologia dell'IS, Giovanni Rezza, che più volte è stato anche qui ospite Effettonotte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ribadendo anche che ci vuole il controllo del territorio, che va benissimo la fase 2, che con le graduali riaperture di cui abbiamo già parlato ieri, in parte parleremo anche oggi, e però poi parallelamente devono anche andare avanti appunto i tamponi, i test sierologici, quando verranno certificati ufficialmente e resi omogenei per tutta la nazione, per tutta l'Italia, e poi il tracciamento dei contagi con questa famosa app che dovrebbe essere realizzata e messa in pratica. Quindi questo appunto un ulteriore appello che viene dall'Istituto Superiore di Sanità. Noi oggi parleremo intanto di questo anche con un epidemiologo molecolare che oggi ha in audizione al Senato, ha detto che forse il Covid-19 sta perdendo forza, quello che speriamo tutti con tutto il cuore, con tutte le nostre forze, a proposito di forza. E tra l'altro ci parlerà anche di una ricerca che è apparsa oggi sul sito di Nature, prestigiosa rivista scientifica, secondo la quale il coronavirus originerebbe da pipistrelli da 140 anni fa, quindi ha una storia di 140 anni. A questo proposito, fra l'altro, torneremo anche sulla polemica, sulle accuse fortissime rinfocolate in queste ultime ore da parte del presidente americano Trump nei confronti della Cina, che accusa la Cina di aver elaborato oppure insomma fatto fuggire da un laboratorio di Wuhan il coronavirus. Quindi ci collegheremo anche con gli Stati Uniti. Poi per quanto riguarda l'Italia, buone notizie, almeno confortanti per quanto riguarda la Lombardia, la regione più colpita, e due inchieste, una sui riders e i famosi ciclofattorini che portano il cibo a domicilio, che non si sono mai fermati anche in questo lungo periodo, e poi un'inchiesta invece che riguarda l'ex presidente della Camera, tema le mascherine, Irene Pivetti. Insomma, tantissime cose, allacciate le cinture. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, whatsapp, commenti tramite messaggi su whatsapp, per lo più so che preferite, ma anche gli sms, 349-238-6666, oppure pagina facebook di Effetto Notte, vi ricordo il twitter Roby con la y linetta bassa Giordano. E quindi partiamo con la sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, scendono i contagi, in lieve aumento le vittime. In Lombardia il ROL, l'indice di contagio è a 0,75. Inchiesta sui rider non tutelati, in particolare a Milano. E poi l'epidemiologo Ciccozzi, in audizione al Senato, dice forse il virus sta perdendo forza. Sarà ospite qui di Effetto Notte. Battaglia sulla Banca Centrale Europea. La Corte tedesca chiede una verifica sugli acquisti di titoli. Irritazione di Bruxelles. Decreto maggio, il governo incontra i sindacati, allo studio riduzioni di orario a parità di salario. Mascherine, Irene Pivetti indagata a Savona per ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazione alla legge doganale. L'ennesimo femminicidio, un uomo uccide la moglie a coltellate nel Cagliaritano. Stati Uniti, Trump insiste nelle accuse contro la Cina, ma i 007 e gli scienziati smentiscono che il virus venga da un laboratorio di Wuhan. Il presidente americano medita allora di licenziare la sua task force. E la rivista Nature ricostruisce l'origine del coronavirus, risale a 140 anni fa. Sport, calcio, rinviato il consiglio della FIGC, si fa avanti un fondo per la Serie A e per il ciclismo, annunciato il nuovo calendario. Partiamo quindi dai dati sul Covid-19 in Italia, forniti quotidianamente dalla Protezione Civile. Nel nostro paese dall'inizio dell'epidemia sono almeno 213.013 le persone che hanno contratto il virus, 1.075 in più rispetto a ieri. Di queste 29.315, quindi sul totale, sono decedute nelle ultime ore più 236, mentre le persone guarite sono 85.231. Attualmente le persone positive delle quali si ha certezza in Italia sono 98.467. I numeri di oggi dicono che su 50 tamponi solo uno è positivo e alcune regioni come Veneto ed Emilia vorrebbero anticipare alcune riaperture. In Italia scende ancora e si attesta a poco più di 98.400 il numero dei malati di coronavirus, oltre 1.500 in meno nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 1.075, meno di un caso ogni 50 test effettuati, ma prosegue il calo dei ricoverati, mentre le nuove vittime sono 236. Una diminuzione dei malati si registra in tutte le regioni, con l'eccezione delle Marche. In Sicilia e in Valle d'Aosta non ci sono stati né nuovi casi né decessi. Confortati dai dati positivi, i governatori di Emilia-Romagna e Veneto fanno sapere che di concerto con il governo si sta lavorando per anticipare alcune delle aperture previste per le prossime settimane. L'Avvocatura dello Stato, intanto, dopo le garanzie di una decisione rapida arrivate dal TAR, ha rinunciato alla procedura accelerata nel ricorso presentato dall'esecutivo contro l'ordinanza della Regione Calabria che consente a bar e ristoranti il servizio ai tavoli se è all'aperto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ieri abbiamo parlato a proposito della fase 2 della ripartenza di Milano, con particolare attenzione al trasporto pubblico. Oggi invece Roma, nessun problema particolare, soprattutto appunto nei trasporti. File composte, mascherine e distanziamento sociale. Anche a Roma la fase 2 procede regolarmente senza il temuto caos, anche perché ad usufruire dei mezzi pubblici, spiega l'ATAC, solo il 15% delle persone del periodo pre-Covid. E se prima si validavano 750.000 biglietti al giorno, ora la cifra è scesa a 115.000. Dunque una situazione gestibile, soprattutto nella metropolitana, dove non mancano cartelli informativi, segnaletica a terra sulle banchine, strutture per regolare i flussi dei passeggeri. Mentre i pochi senza mascherina vengono fatti allontanare dal personale addetto. Più difficile il controllo sugli autobus, dove a volte il numero dei passeggeri è andato al di sopra della capienza del 50% consentita. 600.000 i romani tornati al lavoro il 4 maggio, di cui quasi la metà ha scelto l'auto privata. Il traffico è infatti notevolmente aumentato. Si nota qualche bici in più, ma anche i romani, e non solo, aspettano gli incentivi del governo per l'acquisto dei mezzi, così come riciclabili. Un primo Lotto, assicura il presidente della commissione trasporti del Campidoglio, Enrico Stefano, sarà ultimato entro inizio estate. Piano che prevede 150 km di ciclabili transitori. Il primo lotto sarà di circa tra i 20 e i 40 km. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. In Lombardia ha riaperto l'aeroporto di Bergamo, trasporto pubblico sotto controllo, e anche a Milano appunto un aumento notevole del traffico. Intanto in Lombardia il fattore R0, che indica la capacità di trasmissione del contagio, cioè quante persone può contagiare una persona ammalata, è sceso a 0,75. Ne parleremo tra poco, così anche come dell'inchiesta sui ciclofattorini, i riders che non sarebbero stati tutelati dal rischio di contrarre il coronavirus. L'OMS Europa sostiene la transizione dell'Italia alla fase 2 dell'emergenza Covid-19, il graduale rafforzamento delle capacità di assistenza sanitaria primaria e dei livelli ospedalieri stabiliti sulla base del fondamento scientifico dal Ministero della Salute per proteggere il prezioso capitale umano del paese. Un sostegno da parte dell'OMS, questo lo afferma in un tweet Hans Kluge, direttore dell'OMS in Europa. La fase 2 ha riaperto cantieri uffici. Oggi si segnala anche la prima vittima sul lavoro, un lavoratore morto nell'esplosione della fabbrica Adel Plastic di Ottaviano in provincia di Napoli. Altri due sono rimasti feriti, uno in modo grave. Acque agitate intanto in Europa sui poteri della Banca Centrale Europea dopo che l'alta corte tedesca ha accolto in parte i ricorsi contro l'acquisto di bond da parte dell'Istituto Centrale di Francoforte, cioè della BCE, avvenuti dal 2015. L'Eurotower riunisce il direttivo, la commissione difende le prerogative dell'istituto e il ministro dell'economia Gualtieri sottolinea dalla sentenza sulla BCE nessuna conseguenza. È una doccia parzialmente fredda quella abbattutasi sul programma di quantitative easing della BCE. I giudici della Corte Costituzionale tedesca hanno sentenziato che Francoforte può continuare nell'acquisto di titoli di Stato, ma accogliendo in parte i ricorsi presentati da politici, giuristi ed economisti euroscettici, hanno precisato che il quantitative easing non è coperto dalle competenze europee. La BCE avrà ora 3 mesi di tempo per chiarire il proprio programma di acquisto bond e per spiegare come Francoforte riesca a bilanciare l'impatto economico-fiscale delle sue azioni con gli obiettivi di politica monetaria. La decisione di Karlsruhe contraddice un precedente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che aveva dato ragione alla BCE. Il quantitative easing, lanciato nel 2014, interrotto 2 anni fa e ripreso un anno dopo, ha acquistato negli anni quasi 3.000 miliardi di bond. Quest'anno è stato affiancato dal PEP, creato per far fronte all'epidemia, uno strumento da 750 miliardi la cui legittimità non è toccata dalla sentenza. In mancanza di un chiarimento della BCE, la Bundesbank non potrà più partecipare al quantitative easing. Da Bruxelles la Commissione mostra tranquillità, le sentenze della Corte europea hanno il primato sulle corti nazionali, mentre il ministro dell'economia Gualtieri afferma che il pronunciamento non avrà conseguenze pratiche. Nel senso che la Bundesbank continuerà ad essere parte attiva della politica monetaria comune europea. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Europa e di aiuti, il meccanismo europeo di stabilità, cioè il famoso MES, sarà sul tavolo dell'Eurogruppo l'8 maggio per poi essere finalizzato a metà maggio. L'Italia vigilerà finché non ci siano condizionalità al di fuori dell'uso per spese specifiche, così ha detto il ministro Gualtieri, ribadendo che un eventuale accesso sarebbe condiviso con il Parlamento. Per quanto riguarda il lavoro del governo sul decreto, questo pomeriggio il Presidente del Consiglio ha incontrato i sindacati, insomma, in queste ore. Domani sarà la volta delle imprese. Governo e sindacati starebbero discutendo di contratti collettivi aziendali e territoriali con una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Questa potrebbe essere una misura temporanea da introdurre nel nuovo decreto a sostegno dell'economia, il decreto maggio, un provvedimento che vale 55 miliardi e su cui ancora non è stata trovata una quadra. Il vertice di ieri notte tra il Premier Conte, il Ministro dell'Economia Gualtieri e i partiti di maggioranza si è infatti concluso senza un accordo sulle norme sul reddito di emergenza e sul sostegno alle imprese con ricapitalizzazioni con risorse pubbliche e stanziamenti a fondo perduto. A questo si aggiunge la contestazione sull'insufficienza delle risorse destinate alle famiglie avanzata nel pomeriggio dalla ministra della famiglia Elena Bonetti. Intesa invece sui 14 miliardi per rifinanziare la cassa integrazione, sugli oltre 3 da destinare alla sanità e sullo sblocco di circa 12 miliardi di debiti della pubblica amministrazione. Nel pacchetto lavoro da segnalare la proroga, lo stop ai licenziamenti per altri 3 mesi e l'indennità ai lavoratori autonomi che a maggio dovrebbe salire a 1.000 euro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla scuola. Dopo le dichiarazioni negli ultimi giorni della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, si va delineando anche dal punto di vista economico il piano scuola. Il governo prova ad accelerare sugli strumenti per la didattica a distanza. Il comitato banda ultralarga ha aumentato da 200 a 400 milioni le risorse per portare la fibra a 32.000 scuole, l'81% del totale dalle elementari alle superiori, che salirà al 100% con risorse regionali. L'obiettivo è partire subito, ma il completamento dei lavori è previsto fra 3 anni. Il governo tenta poi di sbloccare i voucher a famiglie e imprese per le connessioni alla banda larga, oltre 1 miliardo di euro fermo da 3 anni. Il comitato ha stabilito che alle famiglie andranno 200 euro per la connessione, aiuto che salirà a 500 euro e comprenderà l'acquisto di PC e tablet per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Già in attuazione invece le misure del decreto Cura Italia, che insieme al PON Istruzione ha messo a disposizione delle scuole 150 milioni per acquistare tablet e PC da dare poi in comodato gratuito alle famiglie più bisognose. Già 200.000 dispositivi sono stati acquistati e assegnati alle famiglie, altri 250.000 sono in arrivo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso alcuni dati dall'estero per quanto riguarda il coronavirus. Partiamo dalla Francia. Le cifre sono pesanti, più di 25.000 morti di coronavirus, crollo del 5,8% del prodotto interno lordo. Fiducia in Francia nella gestione della crisi da parte del governo al 39%. Quindi alla vigilia di una riapertura in cui tutti sembrano già scontenti, la Francia si ritrova agli ultimi posti in Europa per la risposta all'epidemia. Gran Bretagna, sono 693 i morti per coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, tra ospedali, case di riposo e altri ricoveri, fino a un totale attualmente di 29.427 vittime E l'ONS, che è l'Istat britannico praticamente, conferma quindi che il Regno Unito ora è primo in Europa per numeri di decessi davanti all'Italia e secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Spagna, il dato che emerge è che il 70% dei nuovi casi riguardano i medici. Poi gli Stati Uniti, dove il presidente americano Trump insiste nelle accuse contro la Cina di dire che il coronavirus è venuto fuori da un laboratorio di Wuhan, ma 007 americani e scienziati smentiscono che il virus venga da questo laboratorio. Il presidente americano allora merita di licenziare la sua task force di consulenti, tra cui primo il scienziato Fauci, poi però ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. E intanto la rivista Nature ricostruisce l'origine del coronavirus, risalirebbe a 140 anni fa, ne parleremo nel corso di questa puntata. Parliamo anche di Zaki, è stata rinnovata per una durata che verrà resa nota in seguito alla custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere da quasi 3 mesi con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. Speriamo di sapere nei prossimi giorni, ma senza molta speranza. E poi, per quanto riguarda il nostro paese, l'ennesimo femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie con numerose coltellate. E a proposito di femminicidi, vi ricordate quello di Melania Rea, avvenuto nel 2011, fu condannato a 20 anni il marito che uccise la moglie, madre tra l'altro di una bambina di 2 anni, la uccise con 35 coltellate perché aveva una storia extraconiugale. E adesso, grazie alla buona condotta, dopo 10 anni di detenzione, nonostante sia stato condannato a 20 anni, il caporal maggiore Parolisi ha maturato i requisiti per uscire dal carcere. Il suo avvocato dice in questo momento non l'ha ancora chiesto, il fratello però della vittima dice se così fosse sarebbe una cosa terribile. Mascherine. Irene Pivetti, ex presidente della Camera, indagata a Savona per ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte, violazione della legge doganale. Di questo poi parleremo dell'inchiesta aperta. E così anche, appunto, vi dicevo dell'origine naturale del coronavirus che risalirebbe a 140 anni fa. Per lo sport, per chiudere a questo punto, partiamo dal calcio. Il Consiglio federale della FIGC, in programma venerdì, è stato annullato. Servono ulteriori approfondimenti sui temi dell'emergenza, trapela da fonti di Via Allegri, mentre si fa avanti un fondo per la Serie A. Serie A nel mirino dei private equity. A farsi avanti è un gigante degli investimenti, il fondo internazionale CVC, pronto a entrare in partita con un accordo decennale con la Lega Serie A. A quanto anticipato dal Sole 24 Ore, il fondo ha avviato discussioni per presentare una proposta che avrebbe come risultato l'entrata in società proprio con la Lega. Il tutto per valorizzare il brand calcio a partire dai diritti TV in vendita dal 2021, alla scadenza del contratto con Sky e DAZN. In questo modo i club di Serie A potrebbero godere di un immediato incasso cash già prima che la società Lega CVC tratti con i broadcaster o anche con i colossi del web che potrebbero avvicinarsi per la rivendita dei diritti TV. Insomma, un'iniziativa di lungo termine e differente rispetto ad altre operazioni che riguardano la Serie A e che sono allo studio da parte dei private equity in queste settimane, come quella ad esempio del fondo americano Blackstone, con un finanziamento di circa 100 milioni per sopperire alle esigenze finanziarie di breve termine della Serie A in seguito alla pandemia da coronavirus. Il campionato ai box, ma i motori lontano dai campi sono già stati scaldati. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono anche novità per il ciclismo. Il Giro d'Italia ci sarà dal 3 al 25 ottobre, la Milano-Sanremo l'8 agosto, le Strade Bianche il 1 agosto, la Tirreno-Adriatico dall'8 al 14 settembre, in Lombardia il 31 ottobre. Sono queste le date ufficiali dei principali appuntamenti del ciclismo in Italia per la stagione 2020, stravolta dal coronavirus, diffuse da Luci. E poi, proprio per chiudere questa prima parte, anche un aggiornamento che riguarda lo studio sul coronavirus di una possibile seconda ondata da parte dell'Imperial College. In base alle proiezioni dell'istituzione scientifica britannica, se in Italia si ritornasse a un 20% di mobilità in più, senza le dovute misure di sicurezza, ci potrebbero essere fino a 5.000 altri decessi, se si ritornasse al 40% senza precauzioni, fino a 23.000 morti, questo secondo l'Imperial College. Ci fermiamo, momento di pausa, giusto per aggiornare chi ormai è strade e autostrade, e ritorniamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, come sempre, lo sapete, ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata con le notizie principali e poi approfondimenti con gli ospiti, sempre Roberta Giordano con voi a ricostruirvi tutto questo quadro a fine giornata, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. Allora, avete sentito, come sempre, all'inizio della puntata, così vi ho riassunto i dati sul coronavirus in Italia, come sempre forniti quotidianamente dalla Protezione Civile. Lo ripeto, anche se ormai lo sapranno veramente tutti, la Lombardia è stata la regione più duramente colpita dal coronavirus, ma oggi, all'indomani dell'inizio della fase 2, di cui ieri abbiamo parlato lungamente, che poi bisognerà vedere come procederà, sembra che per la Lombardia vi siano finalmente, diciamo, delle notizie almeno minimamente confortanti, cioè il tasso di contagio da coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana. Lo ha detto il vicepresidente della regione Fabrizio Sala a Sky TG24. Sentiamolo in questo passaggio. Noi sappiamo che in questo momento in Italia il tasso R con 0 è 0,80, il tasso di R con 0 della Lombardia è 0,75, cioè l'importante è rimanere sotto l'1, quindi ogni persona contagia 0,75 persone, quindi non più di una. Noi dobbiamo rimanere al di sotto di questo parametro e questo adesso è il compito di tutti noi, di tutti i cittadini. E ne voglio parlare con la nostra Raffaella Calandra, cara Raffaella. Quindi, cara Roberta, eccoci qua. Dopo tante cattive notizie per la Lombardia, questo almeno, certo, diciamo, si vorrebbe un tasso di contagiosità più basso, però per il momento insomma si è abbassato abbastanza per quelli che erano i livelli della nostra regione, no? Fino a poco tempo fa. Ma senza dubbio, diciamo, rispetto alle settimane dei momenti più drammatici, la situazione è migliorata. Questo tasso di cui il famoso RO che abbiamo imparato a conoscere, l'indice appunto di contagiosità, stando a quanto dice il vicepresidente della regione, sarebbe anche leggermente al di sotto della media nazionale. Noi ovviamente non abbiamo motivo per dubitare che sia così, fatto sta che ci sono però comunque ancora un numero di contagiati, nuovi contagiati in Lombardia, che è di gran lunga superiore rispetto ad altre regioni italiane, purtroppo. Quindi in questo momento, diciamo, proprio come diceva poco fa nella voce che hai fatto ascoltare Sala, bisogna preoccuparsi che continui a scendere questo tasso e bisogna preoccuparsene soprattutto ora che c'è stato questo primo allentamento, ed è per questo che anche molti professori ed esperti di vario genere tornano a sollecitare a gran voce quello che forse è stata la principale criticità un po' di tutta Italia, ma soprattutto della Lombardia, cioè di fare tamponi a tappeto di massa, così da riuscire ad avere un quadro, diciamo, il più tempestivo possibile di eventuali nuovi contagi e quindi cercare di evitare di farli propagare ora che A questo proposito, Raffaele, avevo fatto sentire proprio come incipit Giovanni Rezza del Superiore di Sanità. Risentiamolo, visto che appunto hai ribadito questi concetti. Ci vuole un cambio di passo in fase 2. Il Veneto ha fatto molto bene anche in fase 1, continua a farlo, molti tamponi, una strategia aggressiva sul territorio, l'ha fatto così tutte le regioni italiane. Io penso che i tamponi vadano fatti sia sintomatici che i contatti dei casi, anche se asintomatici, quindi in fase 2 io credo che debba cambiare strategia, anche la Lombardia credo si debba adeguare, guardando a quello che è riuscito a fare il Veneto. Il controllo del territorio è molto molto importante. E naturalmente ce lo auguriamo con forza, cara Raffaella. Tra l'altro, a proposito delle riaperture, chi invece non si è mai fermato, fra le varie categorie che non si sono mai fermate durante il cosiddetto lockdown, ci sono i riders o ciclofattorini che consegnano il cibo a domicilio, no? Che hanno continuato a sfrecciare per le nostre città, in particolare per Milano, da un lato all'altro della città, proprio a maggior ragione per la chiusura di bar e di ristoranti, no? Però già prima della pandemia di coronavirus c'erano stati molti dibattiti e polemiche sulla mancanza di tutele nei confronti di questi lavoratori in bicicletta, e adesso è stata aperta proprio un'inchiesta nei confronti di alcune società che appunto gestiscono i riders, perché non li avrebbero tutelati dal rischio di coronavirus in questo periodo, Raffaella? Sì, Roberta, allora sì, come giustamente ricordavi, sono di sicuro tra le categorie che negli ultimi tempi stanno battagliando di più per avere vedere riconosciuti dei diritti anche in qua, invece vengono considerati, diciamo, dei lavoratori autonomi, quindi senza molte forme di diritti, e per questo, diciamo, sono coloro che venivano considerati quelli che si arrangiavano con i lavoretti, per cui c'è stata già negli ultimi anni, direi, una battaglia per far vedere riconosciuti una serie di diritti. Quello che ora sta emergendo è che anche in questi mesi, appunto, di chiusura, non tutte le società avevano fornito i rider di quei dispositivi necessari, le mascherine e i guanti, a tutelarsi appunto dal contagio. Oggi è stato un rapporto del nucleo degli ispettorati del lavoro dei carabinieri a fare un quadro di alcune tra le più importanti, appunto, società di delivery che non avevano innanzitutto adeguato quello che è il documento di valutazione rischi alla nuova epidemia da Covid, e non sempre avevano appunto fornito i loro rider di mascherine e guanti, proprio perché a loro dire, essendo lavoratori autonomi, dovevano pagarseli da sole. Questo però è soltanto l'ultima conferma di quanto in realtà in questo mondo, e noi su Radio 24 l'abbiamo raccontato più volte con un'inchiesta, il mondo della logistica in realtà in questi settori abbia un ruolo fondamentale, e ci sia in questo momento la necessità di una maggiore attenzione, proprio perché questa rete tra città e case e magazzini non può diventare, riprendo l'espressione di un magistrato milanese che se ne è occupato, una rete appunto contagiata, da cui la necessità di garantire tutti i livelli di questa filiera così importante delle adeguate misure di protezione. E quindi, insomma, adesso vediamo per l'appunto se le varie società ripareranno, diciamo, a questa mancanza, visto che è appunto una categoria che abbiamo visto sempre più utile, più diffusa, no? Quella dei riders. Certo. con tutti i rischi che corrono, e però evidentemente, insomma, c'è bisogno di loro, e c'è bisogno quindi che la loro... E infatti sono stati una categoria considerata essenziale, e per questo non si sono mai fermati, non hanno mai smesso di funzionare, e anzi, questo per i rider, ma questo vale un po' per tutta la filiera della logistica, anche i vari autisti che hanno trasportato merci a domicilio con i loro camioncini, allo stesso modo hanno raccontato di aver avuto in questo periodo anche molte più fermate di quante loro richiamano stop, anche 150 consegne al giorno a ogni fattoria, ogni, diciamo, autista, più di quanto non succedeva per ogni Black Friday o per ogni Natale. Da qui appunto l'importanza che questi settori e ogni anello di questa filiera così importante e strategica venga adeguatamente tutelata, sia rispetto al rischio contagio, sia rispetto a quei temi che erano già emersi nel settore della filiera, cioè quelli di sfruttamento, quindi con adeguate paghe. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Grazie a te. Ciao, buona serata. Adesso ci prendiamo una pausa di riflessione, voi continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Dice questo ascoltatore: finalmente non trasmettono più lo spot che bisogna lavarsi le mani, che se usciamo siamo dei delinquenti. Purtroppo riprenderanno quelli dei divani scontati fino a domenica. Vabbè, insomma, non va mai bene niente. Poi è chiaro che in un momento così cupo, che non si conosceva dal secondo dopoguerra, come minimo degli spot che ricordano quali sono le misure di sicurezza, via, no? Per salvaguardarci tutti e salvaguardare il prossimo. Ci sentiamo tra pochi istanti, torno Ratta con la Folgore, perché gli argomenti sono moltissimi. Vi dicevo anche l'inchiesta sulle mascherine che riguarda l'ex presidente della Camera Irene Pivetti, e poi il collegamento con gli Stati Uniti, dove Trump insiste che è la Cina che ha fatto scappare o ha elaborato in un laboratorio il coronavirus. Poi ci sarà invece un epidemiologo che ci spiegherà qual è la natura, così, diciamo, l'origine da 140 anni, anche forse secondo la rivista Nature, e anche che forse il Covid-19 sta perdendo un po' la sua forza. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, è sicuro, perché altrimenti come potreste a fine giornata sapere tutto quello che di più importante succede in Italia e all'estero. E Roberto Giordano con voi sempre a raccontarvelo e poi a spiegare meglio alcuni argomenti, ad addentrarci in alcuni temi con gli ospiti. L'abbiamo appena fatto prima con la nostra Raffaella Calandra parlando della situazione in Lombardia e anche dell'inchiesta sui riders. Un ascoltatore però non si fida di questi dati e dice: mentitori. Paolo da Milano: dicono che il tasso di contagio è basso, ma solo perché in Lombardia non fanno tamponi. Adesso quelli sono i numeri ufficiali, Paolo. Poi è vero che Rezza, che stavo facendo sentire prima, dell'Istituto Superiore di Sanità, ancora oggi ha ribadito che in tutta Italia, in particolare in una regione come la Lombardia, va fatto come è stato fatto in Veneto, cioè tamponi a tappeto, test, controlli, medicina territoriale, eccetera eccetera. Mentre un altro ascoltatore, a proposito delle previsioni, delle proiezioni dell'Imperial College, che è l'istituzione scientifica britannica che ha fatto queste proiezioni sull'Italia, che dice: se si ritornasse a un 20% di mobilità in più senza le dovute misure di sicurezza, ci potrebbero essere altri 5.000 decessi; se si tornasse al 40% in circolazione senza le misure di sicurezza, fino a 23.000. L'ascoltatore dice: com'è che l'Imperial College sa così bene cosa succede in Italia e non si è occupato di quanto stava per esplodere a casa loro nello United Kingdom? Non ha tutti i torti questo ascoltatore. E comunque, per ora, sempre secondo i dati ufficiali, la Gran Bretagna sembrerebbe il paese più colpito in Europa e secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Adesso però, vi dicevo, abbiamo chiuso prima con l'inchiesta sui riders e sulla mancanza di tutele nei loro confronti, in particolare in questo periodo, quindi col rischio contagio coronavirus a cui sono stati sottoposti. E adesso ci spostiamo su un'altra inchiesta. La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato oggi in Lombardia oltre 250.000 mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, la società di cui è rappresentante unica Irene Pivetti, vi ricordate, ex presidente della Camera. E la Procura di Savona indaga per ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte, violazioni alla legge doganale. Allora chiamo in mio aiuto la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Cara Sara, ciao. Buonasera. Per spiegarci in modo chiaro, perché è una storia che va avanti da diversi giorni, Irene Pivetti continua a dire si chiarirà tutto, io ho fatto tutto, ho agito nella legalità, eccetera eccetera, però qua mi pare che sia tra l'altro aperta più di un'inchiesta sulla sua società, sì. Vero Sara? Sì, esatto. Riepiloghiamo allora un attimo cosa è accaduto. Qualche giorno fa si è cominciato con la Guardia di Finanza di Siracusa, che ha sequestrato 9.000 mascherine che erano finite nei negozi di diverse regioni, proprio con l'accusa che fossero mascherine contraffatte arrivate dalla Cina con una falsa certificazione, quindi nocive proprio per chi le indossava, oltre ad essere inutili dal punto di vista della protezione. Poi è arrivata anche la Procura di Savona, ed è proprio la Procura di Savona che ha disposto oggi ulteriori 250.000 sequestri di mascherine, cioè mascherine sequestrate per 250.000 pezzi, che erano nascoste nei magazzini degli ospedali lombardi, dopo che qualche giorno fa aveva già disposto il sequestro di altri 170.000 pezzi. Adesso sappiamo che c'è anche la Procura di Roma che si sta muovendo, perché vuole capire come sia andato questo acquisto, che probabilmente è andato proprio a buon fine, fatto dalla Protezione Civile a metà marzo, con un contratto con la Only Logistic di Irene Pivetti per 15 milioni di mascherine cinesi per un affare da 30 milioni. Sì. Quindi al momento sono 30 le procure che stanno muovendosi, e la novità di oggi è che la Guardia di Finanza di Savona ha disposto un sequestro dopo averne giorni fa fatto un altro, quindi vuol dire che si sta proseguendo. Giustamente ricordavi i capi di incolpazione, perché ovviamente siamo all'inizio della vicenda ed è tutto chiaramente da ancora chiarire, da chiarire, da portare giù, esattamente. Quindi siamo in una fase di indagine, quindi ovviamente per garanzia è giusto anche dire questo. Le accuse probabilmente più forti sono, oltre alla ricettazione, la frode nell'esercizio commerciale, perché evidentemente secondo gli inquirenti avrebbe importato, oltretutto anche con l'esenzione dell'IVA grazie a questo maxi ordine della Protezione Civile, 10 milioni di mascherine che non avrebbero avuto una certificazione corretta, una falsa certificazione di conformità, e erano le famose FFP P2, e ormai siamo diventati tutti esperti di queste mascherine, comunque per capirsi sono quelle con le valvole per sono poter una respirare meglio, ecco, quando esatto, si indossano, che garantiscono però una protezione maggiore, sì. Quindi evidentemente sono quelle che avevano anche maggiore domanda in un momento in cui in Italia era difficile trovarle. Quindi questo affare da 30 milioni potrebbe essersi rivelato una grande truffa in commercio, oltretutto appunto materiale contraffatto. Questa è la vicenda in sintesi. Poi ovviamente ci sono nel dettaglio anche le reazioni delle regioni, perché la Holly Logistics avrebbe già firmato dei contratti con le regioni, tanto che c'è un contenzioso amministrativo con la regione Toscana che ne aveva già comprate diversi pezzi, migliaia di pezzi, quindi ogni regione potrebbe addirittura poi creare a sua volta dei contenziosi sopra le inchieste della procura, perché avevano già effettuato degli ordini. Ora queste ultime che sono state sequestrate erano nei magazzini di alcuni ospedali lombardi, ma quelle precedenti sembrano dovevano essere tutte erano state tutte nascoste. Poi si parla appunto di se era uno stoccaggio normale o un nascondiglio al terminal 2 di Malpensa. Ma Sara, quindi io l'ho sintetizzata in modo estremo, sì. La difesa di Irene Pivetti, che dice ho agito nella legalità, si farà chiarezza, sono fiduciosa. Sì, lei non solo dice di essere nella chiarezza, ma dice anche di aver avuto questa attività per il bene dei suoi concittadini e quindi del paese, quindi di essersi mossa per il bene del paese. Ha fatto anche dell'ironia dicendo si vede che qualcuno non aveva più voglia di fare delle torte, si era stancato di stare in casa, hanno cominciato a cannoneggiare, attaccare la mia società, quindi ovviamente si lascia sempre pensare che ci sia qualche secondo fine, qualche politico fine, oppure di altro tipo, insomma, nei suoi confronti. In qualche modo sì, esatto, sembra poi questo, anche se lei ormai sappiamo è lontana dalla politica da diverso tempo. Ex presidente della Camera per la Lega, sì. No, ormai sì. Molti anni fa, quando era piuttosto giovane. Sara, mi sembra che non ci sia nulla per il momento da aggiungere, anche se questo ascoltatore dice, sì. Claudio, a Reggio Emilia, capisco che l'argomento Irene Pivetti e quanto ne segue possa fare audience, ma a noi interessa solo che la magistratura faccia il suo dovere, il resto, i commenti, il perché, il per come, eccetera, eccetera, della Pivetti non gliene frega niente. Se deve andare in galera ci vada, come tutti gli altri che devono andarci, che non è che dobbiamo fare chissà quali puntate a riguardo. Scusami, Claudio, semplicemente è una notizia come un'altra. Io mi occupo praticamente dello scibile umano di sera, dove naturalmente tutto il giorno raccolgo notizie, eccetera, e organizzo approfondimenti poi con gli ospiti. E mi sembra che questa cosa che riguarda le mascherine e che riguarda anche tanti diciamo milioni guadagnati o di investimento, e poi un tema così delicato che sono per l'appunto dei dispositivi di sicurezza in un periodo terribile, necessari se c'è della speculazione, se c'è dell'illegalità, almeno questo per il momento sono cose al vaglio della magistratura, sia di Siracusa sia di Savona, come ci spiegava Sara Monaci, quindi è nostro dovere parlarne, poi man mano se ci saranno degli aggiornamenti in un senso o nell'altro ovviamente sarà il caso di farli come sempre, no? Sara, mi sembra che non faccia una piega. No, discorso. Anche perché è chiaro che l'argomento è proprio questo, cioè si tratta di un personaggio, ahimè, noto e per un argomento che oltretutto è particolarmente spinoso in queste ore. Cioè, stiamo parlando di un dispositivo che era di difficile reperibilità, quindi qualcuno che potrebbe essersi approfittato per vendere qualcosa non certificato, non conforme, addirittura nocivo, è assolutamente di interesse e di pertinenza sociale. Dopodiché qualcuno può ritenere che ormai possiamo dimenticare Irene Pivetti, e può darsi di sì, però non abbiamo certo rovistato noi, ci sono tre inchieste e sono tre inchieste procure aperte, che si stanno tre muovendo. Procure, quindi insomma non è una cosa da poco, magari finisce in una bolla di sapone, però intanto l'interesse ci deve essere. Sono state comunque, quindi certo. Quando c'è un sequestro c'è anche decine, centinaia di migliaia. Sì, e poi c'è un vaglio e c'è già il vaglio di un giudice che comunque sufficiente dà il consenso ad un sequestro, quindi cioè c'è già un primo passaggio che evidentemente fa ritenere fondata l'inchiesta, che ripeto è solo all'inizio e poi avrà evidentemente, se passerà anche in una fase successiva e verrà chiusa, comunque al vaglio di tutta una serie di giudici, ma questo lo sappiamo. Però facendo i giornalisti ci occupiamo anche delle inchieste sul nascere e non soltanto sul finire. Ovvio, e magari non solo sui risultati. Grazie. Sui risultati, e poi daremo conto di quanto avviene. Certo, grazie. Allora al prossimo appuntamento Sara Monaci. Ciao. Grazie Sara, a voi. Buon lavoro. Invece Fabio dice: Roberta, i rider per l'80% sono ragazzi che non hanno nemmeno il permesso di soggiorno, non hai visto il servizio di Striscia le Notizie, dice un soggetto italiano prende il codice da piattaforma tipo delivery per lavorare, poi lo gira a decine di ragazzi, soprattutto stranieri, si fa pagare una quota da ognuno al caporalato del food delivery. Fabio, comunque appunto l'inchiesta è anche sul verificare se vi sia effettivamente il caporalato fra le varie cose, elementi che hanno portato gli inquirenti ad aprire queste inchieste sulla mancanza di tutele nei confronti dei riders. Bene, direi che a questo punto, mentre continuo a vedere i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, piccola pausa alla viabilità, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E proseguiamo con le notizie da approfondire, naturalmente ad accompagnarvi e a ricostruire gli argomenti, sempre Roberta Giordano con voi e naturalmente da approfondire con gli ospiti. Vedo varie agenzie che sono bollinate col rosso, nel senso che quindi danno un particolare rilievo, ma ve ne cito giusto qualcuna. E intanto il commissario straordinario Arcuri all'emergenza Covid-19, a proposito della famosa app che dovrebbe entrare in circolazione, insomma, nei prossimi giorni, le prossime settimane, ancora non c'è una tempistica esatta, dice che i dati che vengono poi recepiti da questa app vanno cancellati entro il 31 dicembre, siccome c'è la preoccupazione, no? Il dibattito sulla privacy. Poi invece la ministra del Lavoro Catalfo, questa non so se è un'ipotesi o vediamo, apriamo, con il decreto legge maggio dice il blocco dei licenziamenti sarà portato da 2 a 5 mesi, quindi sarà allungato di altri 3 mesi, lo ha detto la ministra del lavoro Nunzia Catalfo ai rappresentanti di CGIL e CISL UIL in una videoconferenza sul decreto maggio. Poi invece Di Maio, ministro degli esteri, dice che alle compagnie aeree dice dovete abbassare i costi per i rimpatri degli italiani nel nostro paese, ed è stata siccome è stata rimandata l'incontro, il vertice della Federazione Calcio Italiana, la FIGC, leggo che giovedì ci sarà l'incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico e la Federazione Italiana Calcio per capire quando, se dovranno ripartire i campionati. Allora, invece adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Marco Valsania. Caro Marco, ben trovato, ben ritrovato. Buonasera. Ciao Marco. Buonasera a voi. Allora, in questi giorni il presidente americano Trump, sappiamo che è tornato più volte alla carica contro la Cina, accusandola di aver nascosto elementi importanti rispetto alla pandemia di coronavirus e di avere, oggi ha detto nelle ultime ore, insomma, di avere dei documenti nelle mani che proverebbero che il Covid-19 viene da un laboratorio di Wuhan, che sappiamo è la città primo focolaio in assoluto in Cina. Tuttavia, nelle ultime ore, gli 007, quindi l'intelligence americana, così come buona parte della comunità scientifica, con in primo piano Anthony Fauci, che è il super consulente scientifico della Casa Bianca in questo momento per il Covid-19, smentiscono il fatto che possa essere questo virus scappato da un laboratorio cinese e invece sottolineano la sua natura, diciamo la sua origine naturale. Però Trump rilancia e dice: gli Stati Uniti riferiranno in modo definitivo entro un certo periodo di tempo sulle origini del coronavirus. Vero Marco? Sì, la battaglia è diventata, diciamo così, molto molto politica, e bisogna distinguere, diciamo, i due piani. Diciamo, da un lato c'è l'interrogativo di fondo, diciamo, la cosa che sembra venire esclusa da tutti a questo punto, diciamo, in modo molto fermo, è che il virus possa in qualche modo essere stato creato in un laboratorio o attraverso manipolazioni genetiche, quindi in qualche modo, diciamo così, volutamente creato, volutamente rilasciato, diciamo, nell'atmosfera. Per creare danno, insomma. Esatto, per creare danno. Il secondo, diciamo, interrogativo è se possa essere, diciamo, se possa essere sfuggito, come dicevi tu, in modo, diciamo, per un errore dal laboratorio dove veniva studiato un virus in realtà di origine naturale, e quindi da questo laboratorio a Wuhan possa poi essere sfuggito, infettando probabilmente un tecnico del laboratorio, e poi essere, diciamo, sfuggito e aver, diciamo, trovato un fertile terreno nel mercato, nel vicino mercato di Wuhan. Al momento, esatto, la tesi più probabile della comunità scientifica, ma anche dell'intelligence, è che non ci siano indicazioni non solo, appunto, della parte, diciamo, di una intenzionalità, ma anche non ci siano indicazioni adeguate sufficienti per poter dire che sia sfuggito dal laboratorio. Detto questo, ecco, Trump ha lanciato invece i suoi, diciamo, collaboratori più stretti hanno lanciato, diciamo, questo j'accuse che invece avrebbero, diciamo, in mano in qualche modo delle prove che questa fuga possa esserci stata, fuga per errore, un terribile errore, ma questa fuga possa esserci stata. Ecco, al momento però non hanno condiviso queste prove con nessuno, neanche con la famosa, diciamo, Five Eyes dell'intelligence coordinata di matrice anglofona, cioè Canada, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. E al momento, ancora, diciamo, nelle ore scorse, l'intelligence australiana ha detto di non essere a conoscenza di alcuna prova sostanziale di questa che possa dimostrare questa tra l'altro fuga. Marco, quindi, però, ecco, leggevo anche poi, scusami, no, leggevo la questione politica, sì. La dimensione politica, che invece è il perché Trump si alza il tiro in questo momento contro la Cina, che è un altro diciamo elemento. Allora, intanto vedevo, e poi ce lo spieghi, vedevo che Trump avrebbe intenzione, secondo il New York Times, di licenziare questa task force con a capo naturalmente Anthony Fauci, no? Il super scienziato, infettivologo, eccetera. E quindi vedremo se la vuole rimpiazzare, che cosa vuole fare. Invece dicevi da un punto di vista politico. Sì. Esatto, rimane da vedere, anche questo è l'elemento politico. Ecco, l'altro terreno, appunto, diciamo, uscendo dal terreno scientifico, c'è poi il terreno politico, che invece è molto più minato, se si vuole, da un punto di vista di ragioni e di perché. Da un lato Trump, diciamo, alza il tiro contro la Cina e lo fa anche, appunto, per ragioni interne. Comunque l'avversario cinese è una delle carte politiche che gli si è dimostrata più utile nelle sue campagne elettorali, diciamo così, il nemico esterno comunque ha una sua logica dal suo punto di vista, diciamo, in vista della campagna elettorale di novembre, anche per, diciamo così, mettere a tacere e rispondere, diciamo, a chi lo critica per aver lui è ritardato la risposta, valutato, negato all'inizio, un'adeguata, esatto. Diciamo, Marco, quindi, che in sicuramente modo, in questo modo butta un po' di polvere negli occhi, anche esatto. Se è vero che sempre di più ci si chiede se la Cina abbia comunque ufficializzato dei numeri reali, trasparenti, perché sembra tutti strano a questo punto, no, che il numero di vittime è davvero troppo contenuto, insomma, rispetto assolutamente e compreso anche il fatto che chiaramente come regime repressivo ha cercato di reprimere dissensi, voci, nascondere, quindi questo è fuori di dubbio. Quello che è però la ragione del rilancio così forte adesso di Trump della pista cinese ha anche delle motivazioni che non sono solo quelle di trovare una responsabilità, ma anche quelle perché comunque Trump aveva in mano delle carte per rispondere in modo anticipato e adeguato alla pandemia, sì, e i critici dicono non lo ha fatto. Quindi, diciamo, mettendo tutto l'accento sulla Cina, cerca, questo secondo i critici, di attenuare le proprie poi responsabilità nella sua risposta. Chiaro. Questo poi si vede anche, diciamo, questo spostamento di focus si vede anche in questa cosa che accennavi tu adesso, cioè il fatto che sembra che abbia intenzione di smobilitare la task force sul coronavirus nelle prossime settimane. Quindi, parallelamente a questo sforzo, a questa pressione per riaprire il paese, nonostante la pandemia continui a essere molto forte, soprattutto in alcune zone del paese, fuori da New York, tra l'altro, vuole anche liberarsi, ecco, insomma, di questa task force, esatto, che lo mette un po' in difficoltà. Esatto, il progetto diventa tutto spostare l'attenzione sulla riapertura, comunque, e quindi spostare l'attenzione dalla task force sul coronavirus per metterla più sul rilancio. bilancio, fra virgolette. Una scommessa molto, molto rischiosa. Rischiosa. Grazie Marco Valsani da New York. Caro Marco, un abbraccio. Tra l'altro ricordo che secondo un sondaggio americano mette in evidenza come molti americani siano contrari alle riaperture di ristoranti e negozi al dettaglio. Grazie a voi. Allora, abbiamo appena parlato di queste accuse di Trump nei confronti della Cina, smentite per il momento da 007 scienziati. Ebbene, oggi la prestigiosa rivista scientifica Nature ricostruisce sul suo sito l'origine naturale del coronavirus, che risalirebbe a 140 anni fa. Praticamente verrebbe dai pipistrelli, e dai pipistrelli si sarebbe separato il SARS-CoV-2, separato fra i 40 e i 70 anni fa dalla famiglia del coronavirus dei pipistrelli. Ma chiedo un po' di spiegazione e traduzione al professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare, direttore dell'unità di statistica medica e di epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma. Professor Ciccozzi, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Come è possibile 140 anni fa, cioè già così vecchio questo coronavirus? Ma certo che è possibile. Guardi, gli strumenti di epidemiologia molecolare sono estremamente raffinati e si riesce con certi tipi di alberi filogenetici, cioè a rintracciare la genealogia del virus veramente con una grande percentuale di esattezza. C'è un intervallo di confidenza, è un discorso probabilistico, però diciamo che si può fare. Noi abbiamo fatto tantissime volte, noi abbiamo datato tutte le epidemie, abbiamo datato l'origine di tantissimi virus, ma non ultimo, il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo datato il salto di specie dal pipistrello all'uomo intorno al 25 di novembre del 2019, di quest'anno, su questa epidemia. Ma ne abbiamo fatte tante altre, la SARS del 2002, abbiamo fatto l'H1N1, insomma. Diciamo che con questi metodi si riesce ad andare indietro nel tempo e a capire l'esatta origine di un virus, l'esatta origine di un'epidemia. Un'epidemia noi la vediamo quando ci sono i casi, ma non sappiamo da quant'è che il batterio, virus, in questo caso un virus, circola e non ce ne siamo accorti. Ecco, con questi metodi noi riusciamo esattamente a capire quando è accaduto l'evento. Quindi rispetto a 140 anni fa di cui parla Nature, evidentemente c'è stata un'evoluzione, una mutazione, cioè viene da lì e poi si è staccato appunto da quello tipico dei pipistrelli ed è diventato qualcos'altro, quello che ci sta così tenendo in ostaggio da diverso tempo. Ma sì, certo, poi lui avrà subito eventi di, come si dice, di ricombinazione, di, chiamiamo, rimescolamento del genoma virale sempre nel pipistrello, perché poi tra di loro si passano virus e i virus ogni volta che si passano da un corpo a un altro, anche della stessa sorgente, cioè i pipistrelli possono ricombinarsi, possono mescolarsi tra di loro, diciamo facendo mutazioni, e in continuo, loro di continuo fanno queste mutazioni, poi ne fanno una che per caso, guarda un po', ci può attaccare a noi. Calcoli che tutte le malattie infettive, almeno il 90%, partono come malattie dell'animale. Non ci dimentichiamo l'HIV, che era tipico delle scimmie, che adesso è un virus umano, purtroppo per noi, ma tantissimi, gli esempi sono tanti, la stessa SARS del 2002, il MERS, quello del cammello, sempre un coronavirus che ha attaccato l'uomo. Quindi diciamo il 90% partono come malattie dell'animale e poi per una mutazione fanno il salto di specie e purtroppo arrivano a noi. L'uomo. Professor Ciccozzi, lei oggi è stato in audizione al Senato e ha detto una cosa che insomma farebbe aprire, diciamo così, le speranze, no? Ha detto che probabilmente il coronavirus in Italia sta perdendo forza, contagiosità? Sì, un po' di potenza la sta perdendo, la vediamo anche dai dati, Diciamo che vediamo che le terapie intensive sono meno cariche di persone, e questo dipende molto dalla terapia, dall'aggressività della terapia che viene data subito, ma anche in parte dal virus che sta perdendo di potenza. Perché? Ma perché c'è stato questo distanziamento che noi abbiamo fatto, no? Sociale, quindi le mascherine, la distanza sociale ha aiutato tutti quanti noi a non infettarsi, quindi il virus non può infettare, non può circolare come prima. E in più lui sta facendo delle mutazioni che ormai non gli servono più a nulla, lui ormai ha invaso il nostro organismo, ha invaso l'uomo e cerca di equilibrarsi con il nostro sistema immunitario. Ora abbiamo due alternative: o l'evoluzione, come è successo 40 anni fa, 60 anni fa, che lo faceva rimescolare nel pipistrello, fino a che non l'ha portato in equilibrio nello stesso pipistrello, tanto è che il pipistrello non sta male, non ha febbre, non ha niente di... Quindi potremmo diventare come i pipistrelli, che poi non ci dà più questi, questi danni. Speriamo di no, perché poi ci mangiano, noi i pipistrelli li mangiano in Cina, quindi no, per carità. No. No, oddio santo. Assolutamente. Ma sono no. Anche bruttarelli, però, diciamo, ecco, senza offesa. Sì, prego. Certo, noi abbiamo due alternative. O l'evoluzione lo porta a definirsi in qualche modo, oppure diventa un nostro compagno di viaggio. E a quel punto chiaramente il vaccino sarà importantissimo, ed è quello su cui si sta puntando molto in questo momento. Terapia e vaccino sono le due cose che noi abbiamo. Come arma in questo momento abbiamo avuto solo la distanza, cioè distanziarci e fare in modo che lui circoli il meno possibile. Ci siamo riusciti, lo vedete dai dati che si danno ogni giorno, quando uno poi fa il resoconto settimanale si vede che le cose stanno andando bene, proprio perché siamo distanti e osserviamo le regole. La terapia ci aiuta a non far più morire le persone, ne muoiono, diciamo, ne muoiono, ma rispetto a prima ne muoiono di meno, e le terapie intensive sono meno cariche. E a me anche una sola persona che muore mi fa stringere il cuore, perché non dovrebbe esistere una cosa di questo genere. Certo. Però stiamo combattendo, e è una battaglia che piano piano la vinceremo. La cosa importante è non farsi distrarre dal oggi, da ieri, sana libera tutti. No, non è sana libera tutti, è soltanto che respiriamo un po' di più, ma dobbiamo continuare a respirare, quindi dobbiamo continuare ad osservare le regole. Distanziamento, igiene, mascherine, eccetera, eccetera. Mascherine, igiene e distanze. Non distrarsi. Tre cose fondamentali. Chiarissimo. E poi lui magari... torno a ripetere, sarà un nostro compagno di viaggio che non ci farà più niente che non magari un raffreddore. Noi ce l'abbiamo un coronavirus umano che ci dà un raffreddore stagionale, magari lui diventerà così. Speriamo, professore, dalle sue parole traiamo un minimo così di luce. Grazie professor Massimo Ciccozzi, grazie. Ricordo, grazie a voi. Epidemiologo molecolare, direttore di unità di statistica medica e epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma. Ci risentiamo un momento.